Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e ben ritrovati per una nuova puntata di Cuore e Denari. Anche se non c'è la nostra Deborah, non vi preoccupate, i temi di denari non mancheranno. E siamo pronti per partire. Sono le 10:31 e 31 secondi. Vi dico anche i secondi perché anche i secondi sono importanti, anche un secondo può fare la differenza e soprattutto quest'anno, perché nel 2016, udite udite, durerà un secondo in più. Allora, quando un secondo ha fatto la differenza nella vostra vita? 800 24 0024. Andiamo con la nostra rassegna stampa. E apriamo la nostra rassegna stampa con un indovinello: è nero quando lo compri, rosso quando lo usi e bianco quando è da buttare via. Che cos'è? 800 24 0024. Impegnatevi a trovare la soluzione, solleticate un po' il vostro cervello, mettetelo alla prova, lo aiuterete a rimanere giovane e sano. La raccomandazione arriva dalla Società Mondiale di Neurologia e da quella italiana, che in occasione della giornata del cervello invitano giovani e meno giovani a puntare sulla prevenzione. Noi salutiamo il professor Leandro Provinciali, presidente della SIN e direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche agli Ospedali Riuniti di Ancona. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, il tema di quest'anno è l'invecchiamento della popolazione e la salute del cervello. Allora, oggi le persone di età superiore ai 60 anni sono circa 800 milioni e rappresentano il 12% della popolazione mondiale. Questi sono dati destinati per fortuna a crescere. Gli esperti infatti stimano che entro il 2050 gli individui di età superiore ai 60 anni saranno circa 2 miliardi. Tutto bene, ma c'è anche l'altro lato della medaglia, perché l'incidenza di determinate patologie neurologiche, penso all'ictus, alla demenza o al morbo di Parkinson, ovvero le più comuni patologie neurologiche che colpiscono in età avanzata, aumenta con l'avanzare dell'età. E dato che tutti, no, ci auguriamo di vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo una vita di qualità e in salute, dobbiamo giocare d'anticipo e sin da giovani lavorare per assicurare al nostro cervello una vecchiaia sana e felice. Si può fare, professore? Certo, certo, sicuramente si può fare. Consideri che in realtà in Europa la quantità di persone che hanno un'età superiore ai 60 anni è maggiore rispetto alla percentuale che lei citava, dato che il continente africano in realtà ha una sopravvivenza più bassa e quindi abbassa l'età media della popolazione, abbassa la percentuale di coloro che hanno superato i 60 anni. È altrettanto vero che in molte situazioni la prevenzione o il trattamento accurato delle malattie che lei ha citato, cioè ictus, demenza e morbo di Parkinson, consente di migliorare la qualità della vita sia della persona affetta che di coloro che sono vicino alla persona malata. Professore, intanto mi scrive subito un ascoltatore, Ivan, ma il cervello si affatica se troppo esercitato? Può avere conseguenze non positive esercitarlo troppo? Al contrario, il cervello è una macchina meravigliosa che si potenzia col lavoro e l'esercizio che comporta l'attivazione del cervello stabilisce nuove connessioni, quindi come se aprisse nuove vie e quindi come se funzionasse meglio in relazione a tutti i tipi di stimoli che ha. Quindi essere allenati è un vantaggio, ecco, non un limite. Perché si dice, no? Non si finisce mai di imparare. E in realtà questo modo di dire contiene una grande verità, perché il cervello, proprio come lei sottolineava, per mantenersi giovane ha bisogno di essere stimolato e allenato. E quindi chi non ha smesso di imparare si è dedicato alla lettura, alla scrittura, a delle attività mentalmente stimolanti, mettiamo dagli scacchi al cruciverba sino ad imparare una seconda lingua, e l'elenco potrebbe essere molto lungo, sembra avere un cervello più giovane. Questo lo sappiamo, ma c'è uno studio del New England, professore, che ne ha misurato gli effetti preventivi delle varie attività. Ce li vuole ricordare? È assolutamente vero ed è uno stimolo importante per tutti noi. Consideri che il rischio di demenza in soggetti che hanno un'attività cerebrale molto intensa, cioè fanno cose anche piacevoli ma impegnative sul piano intellettivo, è molto più basso, cioè il 74% più basso rispetto ai soggetti che invece non fanno attività intellettualmente valida. E questo ha caratteristiche significative anche in altri ambiti, per esempio suonare uno strumento musicale o o fare attività come cruciverba che richiedono la soluzione di determinati problemi. Se mettiamo insieme queste modalità di attivazione della nostra capacità intellettive all'alimentazione corretta, all'attività fisica costante, sicuramente le possibilità di migliorare il nostro stato di salute e di essere efficienti si prolunga per molti anni. Professore, però ci sono abitudini e condizioni che possono nel tempo rappresentare una minaccia per la salute del nostro cervello e quindi aumentare il rischio dell'insorgenza di alcune patologie neurologiche. Allora le chiederei se ci aiuta un po' a ricordare questi, fare un elenco dei nemici, mettiamoli un po' in fila, nero su bianco. Ha ragione, ma forse sono elementi che già sono abbastanza conosciuti: nel vivere bene, tenere una condotta sana, cioè evitare il fumo, limitare in maniera molto drastica l'assunzione di alcol, cercare di controllare i valori pressori, posizionare, ridurre il colesterolo ad un limite adeguato. Controllare frequentemente la glicemia, essere attenti all'assunzione di determinati farmaci, sono tutte possibilità che ci consentono di salvare il nostro cervello. E se noi consideriamo che in realtà perdiamo con l'avanzare degli anni una quantità molto consistente di neuroni, la possibilità di salvarne alcuni che possono essere danneggiati da questi fattori che ho citato è indubbiamente rilevante. E la nostra vita di relazione, la nostra vita cognitiva è legata al numero di neuroni attivi e al collegamento fra questi. Quindi diamoci da fare. Professore, l'obiettivo di appuntamenti come la giornata di oggi è, come sempre, no? Aumentare l'informazione e la conoscenza. Allora ci aiuti un po' a mettere dei puntini. Chi è potenzialmente a rischio? Rischio, professore? Ma i rischi sono diversi a seconda delle condizioni di malattia che noi vogliamo considerare a carico del cervello. Le persone con pressione, valori pressori particolarmente elevati e instabili sono maggiormente a rischio per un evento cerebrovascolare, cioè per un ictus, ma in realtà l'ictus ha anche altre condizioni diversificate di rischio a seconda della forma, del tipo di accidente cerebrovascolare, che è fortemente differenziato. Per quanto riguarda invece le condizioni di demenza, tutte le situazioni che noi abbiamo preso in considerazione nel senso di una buona condotta intellettiva e di una buona alimentazione si associano ad una predisposizione individuale che ha radici nella nostra famiglia. Questo anche è un elemento molto importante, perché con l'aumentare della sopravvivenza, cioè superando gli 80 anni, il rischio di un decadimento cognitivo diventa molto molto più evidente. L'ansia, lo stress e la depressione, ci scrive Lucia via WhatsApp, possono far invecchiare o ammalare il nostro cervello, professore? Possono farlo funzionare in maniera diversa, e la depressione in realtà è una condizione che qualche volta precede o accompagna le malattie che abbiamo citato, sia l'ictus che la demenza che la malattia di Parkinson. Quindi deve suonare un po' come un campanello d'allarme. Suona come un campanello d'allarme, ha caratteristiche particolari la depressione che si associa a queste malattie del cervello, e si colloca anche in tempi diversi rispetto alla stessa malattia, cioè la depressione può precedere una condizione di demenza in soggetti che non hanno mai sofferto di depressione, e mentre nell'ictus questa condizione psichica accompagna l'evento cerebrovascolare, così come accompagna il disturbo del movimento nella malattia di Parkinson. Professore, quindi depressione e malattie neurologiche hanno un legame che si esprime diversamente nel tempo. Andiamo invece ai segnali che ciascuno deve riconoscere per sé o per i propri familiari, perché soprattutto per il cervello, c'era una campagna qualche tempo fa che diceva: per il cervello il tempo è vita, no? Sicuramente di molte aspetti, questo legame del tempo con il cervello è stato uno delle motif della nostra campagna nazionale, e in realtà si orientava in due direzioni: uno, essere tempestivi di fronte ad un sintomo di compromissione del cervello stesso, perché assistere ad un soggetto che, in cui si manifestano i sintomi dell'ictus entro le prime 2-3 ore può significare salvare la vita o ridurre fortemente la disabilità. E così pure negli eventi traumatici, e così pure in altre condizioni, sempre che il paziente sia assistito in un centro qualificato che ha certe caratteristiche operative. Ma il rapporto fra tempo e cervello e malattie cerebrali è ancora importante, perché la diagnosi precoce, le terapie tempestive e la possibilità di seguire nel tempo le malattie neurologiche a carattere degenerativo limitano la sofferenza e riducono la disabilità. E questo è un messaggio sia umano che sociale di grosso valore. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi. In tutti i sensi. Grazie, professore Provinciali. E in occasione della giornata del cervello vogliamo parlare di un successo della ricerca che dimostra, pensate, la straordinaria capacità del cervello di mantenere la sua plasticità anche in età adulta. Lo dimostra il caso di un ragazzo, Alex, un ragazzo rumeno, che in seguito a un grave incidente stradale, dove riportò un grave trauma cranico e rimase in coma per una ventina di giorni, si è risvegliato con gravissime difficoltà cognitive motorie. Sottoposto poi a un programma riabilitativo, oggi Alex non solo è di nuovo bilingue, ma cammina con il suo ausilio di un bastone e, pensate, ha anche iniziato a recitare a teatro. In linea con noi il professor Andrea Marini, ricercatore di psicologia generale dell'Università di Udine, che è tra i coordinatori dello studio. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, intanto iniziamo a dire che si tratta del primo caso al mondo documentato sino ad oggi. Sì, sicuramente è un caso veramente eccezionale. Questa, come diceva lei, è la storia eccezionale di un ragazzo, lo chiameremo Alex, il quale nasce in Romania, a 7 anni con la famiglia si trasferisce in Italia e lì, in Italia, in Piemonte in particolare, riceve la scolarizzazione. Quindi di fatto diventa un bilingue, potremmo chiamarlo sequenziale, nel senso che acquisisce le due lingue una sì, dopo l'altra, l'italiano come seconda lingua, e a mano che prosegue negli studi si fa tanti amici italiani, quindi di fatto è un buon bilingue in entrambe le lingue, li usa tutte e due. Aprile 2009, a 19 anni, purtroppo è coinvolto in un terribile incidente stradale, da cui purtroppo ne ricava un trauma cranico molto severo, con un coma di quasi un mese che di fatto determinerà degli esiti cognitivi veramente molto nefasti. Calcoli che nel giro di 3 mesi si innescano nel suo cervello dei processi patologici che purtroppo porteranno alla completa perdita dell'emisfero sinistro, pensi un po', appena ad agosto 2009, quindi circa 3 mesi dopo. Questo ragazzo, quando si risveglia dal coma, soffre di tetraparesi spastica, soprattutto lateralizzata a destra, poi evolve un quadro di emiparesi destra molto grave, calcoli che era obbligato a usare una sedia a rotelle, riceve una prima riabilitazione proprio iniziale all'ospedale di Fossano a Cuneo, e subito dopo, nel 2010, ancora però non è testabile. Calcoli che è passato 1 anno e mezzo, ancora non era possibile valutarlo. Dobbiamo arrivare all'inizio di ottobre 2010, quindi molto tempo dopo, quando viene fatto entrare in questo centro PASOL, un centro per la riabilitazione intensiva a Torino, dove riceverà una riabilitazione estremamente intensa per durata e appunto intensità di lavoro svolto. E questa riabilitazione ha prodotto dei risultati straordinari. Restate con noi, chiederemo al professor Marini di raccontare, soprattutto raccontarci che cosa ha prodotto questa riabilitazione, che cosa è successo nel cervello di Alex, usiamo naturalmente questo nome, e che adesso è un ragazzo che non solo ha ripreso a parlare le due lingue, ma può camminare e addirittura si è iscritto ad un corso di teatro. Andiamo alle strade e poi di nuovo insieme. Cuore e denari. E siamo ritornati insieme per raccontarvi la storia di Alex, un ragazzo che attraverso un mirato programma riabilitativo ha ripreso a parlare le due lingue dopo aver subito un trauma molto severo. Nel cervello è successo qualche cosa. Professor Marini, ci racconti? Sì, è successa una cosa molto interessante, perché alla valutazione che lui ha ricevuto in entrambe le lingue nel 2014 risultava avere un'afasia parallela lieve in entrambe le lingue, anche se era in realtà stato riabilitato soltanto in italiano. E in un esperimento di risonanza magnetico funzionale che abbiamo condotto con i colleghi dell'Università di Torino, abbiamo potuto in effetti accertare che mentre questa persona era coinvolta in un compito in cui doveva pensare a delle parole nelle due lingue, si attivava lo stesso epicentro in una rete neurale nell'emisfero destro, nel suo lobo temporale destro. Quindi è stato un caso veramente molto interessante da questo punto di vista. Perché in pratica l'emisfero destro ha svolto un ruolo fondamentale nel recupero del paziente, che nell'adulto ad eccezionale, e infatti si è accollato anche il lavoro dell'altro emisfero. Allora, devo dire che questo il ruolo svolto dall'emisfero destro nel recupero dell'afasia è un ruolo molto dibattuto in letteratura. Ci sono varie ipotesi, alcune di queste ipotesi sostengono che durante il recupero da una lesione le aree perilesionali nell'emisfero sinistro dovrebbero prendere il controllo. Secondo altre ipotesi, l'emisfero destro sarebbe in grado da solo di recuperare le funzioni perse a sinistra. Secondo altre ipotesi ancora, l'emisfero destro, inibirebbe il recupero completo da parte dell'emisfero sinistro. Una cosa è certa, professore, che questo studio che cosa dimostra? Che anche in età adulta il cervello si mantiene plastico, mi passi il termine, malleabile. Esattamente così, dimostra che il cervello può ancora recuperare in maniera incredibile e straordinaria in età adulta, cosa che fino a poco tempo fa era nota solo in parte, si pensa più che altro all'età evolutiva, no? Sì. Ma soprattutto ci dice che l'emisfero destro da solo, in isolamento, è perfettamente in grado, in seguito a una riabilitazione intensiva e prolungata nel tempo, di recuperare fino a un buon livello funzioni linguistiche, anche certo, in seguito a lesioni così gravi. Professore, questo caso potrebbe aprire nuove possibilità di recupero del linguaggio e del movimento? Penso a casi di ictus o altre lesioni gravi? C'è un modello che potrebbe essere poi applicato in altri pazienti? Allora, nella nostra esperienza la riabilitazione è stata una riabilitazione, dicevo, molto intensiva, pensi 3 giorni a settimana. Quasi un bombardamento, insomma. Un bombardamento però su più fronti, certo. Un bombardamento motorio, un bombardamento cognitivo, linguistico, conversazionale, aspetti anche pragmatici della comunicazione sono stati considerati. E questo studio di fatto ci dimostra che il trattamento intensivo e prolungato nel tempo sicuramente permette un recupero funzionale del linguaggio, anche in casi molto molto gravi. Naturalmente, professore, da sottolineare, Alex è un ragazzo che ha manifestato una grandissima forza di volontà, e poi un altro aspetto che vogliamo ricordare prima di salutarla è che questo è un bellissimo esempio del lavoro di un'equipe che ha funzionato molto bene. Esattamente, teste diverse hanno lavorato con l'obiettivo comune di dare una vita migliore ad Alex, penso alla dottoressa Zettini e alla dottoressa Valentina Galetto del centro Puzzle, che hanno eseguito materialmente la riabilitazione, penso alla dottoressa Carina Tatu dell'Università di Torino, che è stata fondamentale per la valutazione anche nel rumeno, e penso per esempio ai colleghi Sergio Duca, Katiuscia Sascia, Sacco e Giuliano Geminiani dell'Università di Torino e dell'Ospedale Köhlig, fondamentali. Li abbiamo ricordati tutti, perché solitamente quando ci sono poi i successi i nomi spariscono, invece bisogna ricordare l'impegno di tutti questi ricercatori. Grazie professor Marini per essere stato con noi. Grazie a lei. E complimenti. E andiamo alla rassegna di denari. Non c'è pace per i consumatori alle prese con le bollette. Quante ne volte ne abbiamo parlato insieme a Deborah in questa stagione di Cuore Denari, e non potevamo non tornarci ancora una volta prima delle vacanze estive, sperando, ve la devo dire tutta, che sia l'ultima, no? Allora, quella che inseriamo nella rassegna stampa di oggi però potrebbe sembrare una buona notizia. Lo scorso 1 luglio l'autorità per l'energia elettrica e del gas aveva deciso alcuni aumenti delle bollette della luce, aumenti che però sono stati in un secondo momento sospesi dal TAR della Lombardia, una vicenda in cui c'è lo zampino del Codacons. E allora noi oggi abbiamo invitato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, abbiamo 5 minuti di tempo per dare tutti i dettagli ai nostri ascoltatori e per chiamare Angelo anche da Cesena, che si è misurato con l'indovinello che abbiamo lanciato oggi in occasione della giornata del cervello. È nero quando lo compri, rosso quando lo usi e bianco quando è da buttare via. Non lo chiedo a lei la risposta, ma a lei chiederei di dirci di che entità era questo aumento del 1 luglio e qual era la causa? Io spiegherei che cosa è successo. Esatto. Avevano fatto un aumento all'autorità di energia del 4,3% delle tariffe. Sì. All'incirca un 70 euro a famiglia in un'annualità, come peso, diciamo così. Ma la cosa strana è che questo aumento era stato fatto proprio esplicitamente dicendo nel provvedimento, io ce l'ho davanti agli occhi, che c'erano state delle manovre speculative che avevano, l'autorità addirittura parla anche di strumenti fittizi, diffusioni di indicazioni false e tendenziose, eccetera, eccetera, da parte dei grossisti dell'energia. Spiegare cosa sono i grossisti dell'energia è un po' difficile. Praticamente con la liberalizzazione dell'energia, che è successo? Che il fornitore unico dell'energia poi viene intermediato rispetto alle regioni, ai comuni, a chi acquista l'energia da alcuni grossisti. Sì. Quindi è una cosa assurda e inutile, ma comunque può far guadagnare un altro po' di gente. Questi che cosa fanno? Cosa hanno fatto secondo l'autorità? Hanno manipolato il mercato, cioè hanno ridotto l'offerta per far salire il prezzo, hanno fatto sparire quantitativi di energia. Quindi si sono un po' messi d'accordo. Si sono messi d'accordo, ma soprattutto hanno indotto praticamente che cosa? Il prezzo sul mercato a salire. A questo punto scattano dei meccanismi nei regolamenti dell'autorità dell'energia, per cui se questo prezzo sale l'autorità deve fare qualche cosa. Che cosa ha fatto? Invece che stangare questi signori e mandarli alla Procura della Repubblica, ha detto aumento le tariffe. Cioè intanto queste manipolazioni le pagano i cittadini. E poi vedremo. E lei mi ha detto il costo, circa 29 euro a famiglia? No, circa 70. 70, euro, sì. Ecco, mi sono ancora di più, mi ero alleggerita. c'è sempre questa tendenza qua. Allora, ma questi aumenti sono stati sospesi? Ma che adesso, cosa vuol dire esattamente? Cioè, allora, perché questo provvedimento che grida vendetta, diciamo così, anche perché l'autorità poi ha nascosto i nomi di questi grossisti, questa è un'altra cosa che non si capisce. Cioè la gente avrebbe diritto di sapere se chi ha imbrogliato o presunto imbrogliato ci piacerebbe ci piacerebbe saperlo. Comunque, se mi avvicinano per propormi un contratto, so che quello ha fatto sta cosa, lo mando a quel paese, insomma, voglio dire, è una informazione doverosa. A parte questo, noi abbiamo fatto ricorso al SAR della Lombardia, che è competente su tutto il territorio nazionale, cioè i ricorsi contro i provvedimenti dell'autorità di energia si devono fare per forza al SAR della Lombardia, che con un decreto ha sospeso questi aumenti, dicendo proprio questo, dicendo ma non si può fare così. L'autorità avrebbe dovuto un attimo sospendere il procedimento di aumento, verificare come stavano le cose e dopo, semmai. Invece l'autorità ha fatto il contrario, intanto senta, pagate voi. Ma Rienzi, noi siamo sicuri di non ritrovarceli comunque in bolletta, magari con qualche voce nascosta, quelle voci che uno legge e non capisce. Ecco, mi spiega proprio in modo semplice, così lo capisco pure io, che cosa dobbiamo fare per verificarlo? Sicuramente, allora, se non viene revocata la decisione del TAR, non saranno messi aumenti nelle bollette. Adesso l'autorità dice ma io faccio reclamo, vado di nuovo al TAR, chiedo la revoca. Noi stamattina abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sviluppo Calenda di andare a parlare con l'autorità e dire amici miei, ma che figura ci facciamo anche nel mondo? Adesso avete detto che è stato fatto per imbrogli. Sì, non, sembra che non ci interessi tanto fare delle brutte figure. Capito, no, ecco, però speriamo che si mettano una mano sul cuore. Quindi noi dovremmo stare tranquilli. Dovremmo stare tranquilli, noi diciamo ai cittadini però di dare un segnale, quindi di mobilitarsi. Sul nostro sito abbiamo messo un atto che gratuitamente possono scaricare, che è la nomina di parte offesa, perché noi naturalmente abbiamo fatto quello che avrebbe dovuto fare l'autorità, abbiamo trasmesso tutte queste carte alla Procura della Repubblica di Milano e di Roma, perché ci sono almeno in astratto le ipotesi di truffa aggravata e aggiotaggio. Aggiotaggio è proprio il reato tipico di chi fa manovre speculative sul mercato e tiene quindi i prezzi alti e fa aumentare. Ecco. Quindi l'invito è andare sul vostro sito? Bene, prendere questo pezzo di carta, scaricarselo e mandarlo dove, seguendo le istruzioni. Non costa nulla, ma dà un segnale a chi ci governa che non abbiamo l'anello al naso, cioè che stiamo attenti, abbiamo gli occhi aperti, non accettiamo qualsiasi vessazione, qualsiasi prevaricazione, dicendo ma se l'hanno deciso lì. E allora. Allora, grazie a Carlo Rienzi, naturalmente torneremo presto anche noi su questa vicenda, le auguro una buona giornata. Buona giornata e buon lavoro a voi, grazie. Anche a lei. Abbiamo Angelo da Cesena, che è stato il primo ascoltatore che all'800 24 00 24 ha risposto al nostro indovinello di oggi che abbiamo fatto in occasione della giornata del cervello. È nero quando lo compri, rosso quando lo usi, bianco quando è da buttare via. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cos'è? Per me è il carbone. Bravo, è il carbone. Grazie Angelo, dalla regia le chiederanno tutti i dati per ricevere il libro a casa. Io passo la linea al nostro GR, ci ritroviamo subito dopo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Voglio vivere ancora. Vabbè, sicuramente Donald Trump vive a colori, se non lui, la sua chioma, limone, mandarino, pompelmo, pesca. Questo colore mutante dei capelli di Trump è finito naturalmente sotto i riflettori, anche alla convention repubblicana di Cleveland. E questa una chioma che è quasi un marchio di fabbrica, naturalmente su cui si sono scatenate le battute dal giornalista del New York Times che ha scritto che ha avuto l'intera sezione degli agrumi di un supermercato sulla testa. Anche Barack Obama ha commentato che l'arancione non sarà il nuovo nero, insomma gliene hanno dette un po' di tutti i colori, ma non è il solo, perché l'odissea tricologica di Trump è affiancata anche da quella di Hillary, no? Che sembra che se diventasse presidente sfoggerà un nuovo taglio, almeno se deciderà di seguire il consiglio della sua parrucchiera di fiducia, Isabel Goetz, ma credo di sì, dato che la signora la segue dagli anni 90, da quando Hillary era entrata per la prima volta alla Casa Bianca come First Lady, no? Le aveva già poi anche cambiato look in occasione del matrimonio della figlia e amerebbe farlo nuovamente nel caso Hillary si trasferisse alla Casa Bianca. D'altronde Coco diceva: una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita. E voi quando vi tagliate i capelli? Vi tagliate i capelli regolarmente? Oppure usate il taglio per rinnovarvi, magari per affrontare una nuova situazione, una nuova svolta nella vita? Infatti, a proposito di cambiare vita, Laura Banossi mi ha segnalato che il parrucchiere di Pogba, che è il calciatore oggetto del mercato, ha postato una foto con una didascalia inequivocabile: ho cambiato colore per la sua nuova squadra. Ma insomma, questo tanto per fare un po' di gossipetto sui capelli, ma a noi interessano i vostri di capelli e quindi oggi vogliamo darvi tutte le indicazioni e le raccomandazioni per mantenere la vostra chioma bella, sana, lucente e se andate in vacanza per riportarla a casa in ottima forma, come ritornerete voi. 800 24 00 24 se volete intervenire, raccontarci ed eseguire un po' anche un test, un autotest dei vostri capelli. Come porti i capelli, bella bionda? Tu li Scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli me li Sì, come li portate i capelli? Sono lunghi, corti, li tingete, li colorate, fate le mesh, colpi di colore? li portate rasati proprio perché magari sono un pochino fini e volete in qualche modo, no, con questo effetto rasatura, no, magari superare il complesso del capello che magari è rado, oppure di una stempiatura, di una fronte diciamo spaziosa. Oggi insieme a noi la dottoressa Anna Trink, dermatologa, buongiorno. Buongiorno a tutti e bentornato. Grazie. E abbiamo il piacere di avere con noi Roberto D'Antonio, parrucchiere di personaggi molto famosi e non di Trump. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno. Ma buongiorno. Allora, scusa un attimo, ma che colori metterà Trump? Ma ormai non so, cioè ci manca il nero perché li ha usati tutti, dal pesco, rosa, giallo, viola. Non so, cioè usa delle lacche strane quest'uomo. Ma perché quel bananone secondo te? Ma non capisco, perché forse il suo look è presentarsi con qualcosa di esterno, che invece a noi ci interesserebbe più una cosa interna alla testa, di che funzioni. Ma l'esterno, che c'ha una bella moglie, ma a noi ci importa poco, è bellissima lei. Ma lui con quei capelli veramente orribili. Lei è bellissima, aveva una chioma magnifica, bellissima. Chiedo come possa... Lei era completamente proprio al 100%, però lui un po' molto meno, e nemmeno i figli secondo me li ho trovati così interessanti. Senti, invece a Hillary tu la testa la cambieresti? No, perché secondo me è una bella testa anche dentro, non è una donna capace, una donna che ha... volontà, e poi una donna che mi piacque tanto quando difese il marito, e dunque l'ho trovata una donna importante. Allora, intanto naturalmente non parleremo solo dei capelli dei personaggi famosi, anche se tu, Roberto, ne hai sotto le mani spesso di teste famose. Sì, mi sono tornato ora da Cannes, dove ho fatto 15 giorni con la bellissima Golino, la meravigliosa attrice che era nostra rappresentante per la giuria internazionale del festival. Guarda, devo venire un po' anch'io da te, così non ti monti troppo la testa. Magari. Così dalle bellezze e alle cose, in modo che, no, perché ti devono capitare anche a te un po' di sole. Allora, dottoressa Trink, intanto volevo chiederle di aiutarci insieme a Roberto a fare subito un autotest dei nostri capelli. Da che cosa cominciamo? Diciamo da distinguere due cose: cuoio capelluto e capelli. Perché è vero che tendenzialmente tutti i danni che riguardano il fusto, per quanto esteticamente negativi, sono riparabili. Quello che dobbiamo stare un po' più attenti è il cuoio capelluto. Quindi sintomi del cuoio capelluto: ho bruciore, ho prurito, ho dolenzia quando sposto i capelli, sono segni a cui portare attenzione. Colore del cuoio capelluto: lo vedo arrossato, lo vedo pigmentato, direi che ha preso troppo sole o che c'è un processo infiammatorio, quindi attenzione anche in questo caso. Sui capelli, attenzione alla risposta alla trazione, si spezzano facilmente, le doppie punte sono molto più del solito, o allo spessore, li vedo molto più assottigliati, e una cosa che probabilmente diranno molto spesso anche a Roberto, la piega mi tiene meno del solito, probabilmente segno di un assottigliamento, magari di origine ormonale, quindi da controllare. La caduta, se è un fenomeno non transitorio, cioè se è una caduta importante che dura per più di 3-4 mesi, allora può essere un segnale a cui porre attenzione. Roberto, scusa, sì. con la dottoressa, perché finora è stato sempre importante pensare che il parrucchiere potesse risolvere questo tipo di problema, invece ci vuole sempre un buon medico che possa risolvere il problema della caduta oppure della cute con un po' di problemi. Noi con della tecnica importante facciamo qualcosa, però è importante che se continua la caduta, perché il capello ha un ciclo normale di vita, c'è la nascita, la crescita e la caduta, però se la caduta continua bisogna rivolgersi a chi è un esperto internamente, capire se c'è qualche problema di alimentazione, di stress, e allora quello si può curare. Si va dal dermatologo. Sì. Dottoressa Trink, in effetti i capelli, come anticipava Roberto, raccontano anche molto, no, del nostro stato di benessere, della nostra salute, possono anche segnalare delle carenze. Certo, io sono molto d'accordo con lui sul lavoro di integrazione. È nata una coppia, qua, a Cuore Denari. Anche Roberto, no, vengo bello. Giù con la dottoressa Trink, ma lei sarà bellissima, avrà tutto questi, esatto. Avrà. Poi ci manderà una foto dei suoi capelli. Ma un po' anche a noi. Quindi, dottoressa, a beneficio dei nostri ascoltatori, che cosa possiamo sottolineare? Che cosa devono sapere? E per quanto riguarda l'alimentazione, effettivamente quello che è importante è mangiare per i capelli, al di là delle varianti stagionali, ma magari di cui parleremo poi per il sole, quello di cui vivono soprattutto i capelli sono le proteine, perché sono quelle che vanno a costruire, diciamo, i mattoncini, la cheratina, no? Che va a formare la struttura del fusto. Io quindi penso, certamente, una dieta... che ho perso 80, 78 kg e i capelli mi sono facendo ho fatto un intervento e ho seguito una dieta, i capelli mi sono ritornati pazzeschi. Come dice lei, di proteine. Non, ecco, e non porti la banana di Donald Trump. Ecco, il rischio vero sono le diete non bilanciate, perché quando l'apporto proteico è corretto, i capelli non ne risentono. Quindi i capelli hanno bisogno di proteine. Apriamo Bell, quindi in pratica di che cosa hanno bisogno? Proteine, che possono essere di origine animale o vegetale. Ai capelli, esatto, piacciono animale, entrambe. Sempre grande disputa sulla perché ci sono persone che non mangiare la carne, no? Sì. Allora, certamente una fonte proteica, ma è certamente qualcosa che si può ovviare anche con fonti vegetali, legumi in particolare, sono sempre loro, quindi fagioli, lenticchie, ceci, che hanno una fonte proteica importante senza il rischio di effetti collaterali della carne rossa consumata ogni giorno, che in effetti a lungo termine può essere pericoloso per altre ragioni, ecco. Dottoressa Trink, prima l'estate porta sicuramente dei vantaggi, lo vediamo anche in delle malattie cutanee, alcune migliorano, anche per i capelli l'estate può essere una buona occasione, per ad esempio la forfora che durante i mesi freddi, in inverno e in autunno, no, è presente, di solito in estate migliora, è corretto? È vero, è quella che chiamiamo forfora grasso, se possiamo distinguere, e non quella che troviamo effetto neve sui vestiti, che invece è un po' più da disidratazione del cuoio capelluto, ma la forfora grassa che dipende da un lievito che vive in simbiosi sempre sul nostro cuoio capelluto e che si nutre del nostro sebo, diventa, diciamo, patogeno, manifesto da questa descamazione grassa, l'infiammazione del cuoio capelluto, se in alcune condizioni di stress o di cattiva alimentazione il nostro sebo viene prodotto in eccesso e quindi questo fungo replica a dismisura, dando un segno di sé, della sua presenza. In estate, per l'effetto del sole, in effetti la produzione di sebo cala, è come se fosse un sebo regolatore e quindi si regola anche la presenza di questa malassezia sul cuoio capelluto ed è questo che fa retrocedere i sintomi, che invece tipicamente si ripresentano purtroppo in autunno. Roberto, prima delle vacanze, almeno noi donne diciamo parto per le ferie, vado al mare, vado in montagna, mi sistemo un po'. Quali sono i trattamenti che tu consigli prima dell'estate e quelli invece che ci inviti a non fare perché sarebbero delle spese inutili? La cosa peggiore è, secondo me, è avere questa follia di scurirsi magari troppo i capelli, perché l'estate ti scolorisce i capelli. Era una cosa che si faceva un tempo, adesso si usano anche per aiutarsi delle lacche particolari colorate che possono aiutare il bianco della crescita, oppure dei rimmel colorati che ti possono ovviare alla crescita quando si scolorisce al mare. Però la cosa importante è fare impacchi di henné oppure con olio di oliva o con olio di cocco per rafforzare il capello per l'estate, e poi nel periodo proprio questo più caldo dei bagni bisogna sempre utilizzare i prodotti con un filtro solare prima e dopo l'esposizione e poi sciacquarli sempre con acqua dolce. Ma Roberto, dimmi bene dell'impacco di henné, di olio d'oliva, cioè, sì, guidaci perché guarda, c'è subito la Laura Vanossi che lavora a Acquare Denari con noi in redazione, che ha delle chiome bellissime, lunghe, eccetera, e ti devo dire che le cura come delle bambine. Allora, quando ha sentito impacco, visto che è spuntata fuori da dietro la testa di Carmelo ed era subito interessata. Allora, il consiglio di Roberto D'Antonio, come si fa l'impacco? Quale impacco scegliere? Guarda, l'impacco di henné è per ovviare a non parlare di prodotti che sono ugualmente efficaci, diciamo questi sono i prodotti più semplici che si possono trovare a un mercato buono, insomma, però ci sono anche degli impacchi di creme importanti, di ditte e di marchi importanti che fanno lo stesso risultato. L'importante è metterli bene, sciacquarli bene e idratare bene poi i capelli. Cioè si mettono sempre quasi prima di lavarli. Sì. E poi dopo si fa lo shampoo e si sciacqua tutto quello che si è messo prima. Poi per esempio per l'olio di cocco o l'olio d'oliva ci sono altri oli, sempre di argan o di fiori di camelia, che sono stati fatti da ditte importanti, che si mettono su tutte le lunghezze dei capelli, si fa un bel impacco e ci si sta per un'ora, due ore e poi si sciacqua bene i capelli. L'importante è sciacquarli sempre con acqua dolce. Acqua dolce. E alla dottoressa Trink, a proposito di acqua, parliamo di lavaggi. Dottoressa Trink, in estate il capello si lava più spesso. Voi dermatologi solitamente siete favorevoli ai lavaggi frequenti. Sì. Ecco, perché così si puliscono anche per chi soprattutto vive in città, no? Di tutte le polveri che in qualche modo li danneggiano. Ma, esatto, diciamo che i lavaggi frequenti in generale, soprattutto in chi vive in città particolarmente inquinate, sono indicati tutto l'anno. Certamente in estate, sommando salsedine, sommando il cloro per chi invece preferisce la piscina, è un bene proprio per l'integrità della cuticola sciacquarli più spesso possibile, nel senso sciacquarli immediatamente dopo il bagno, e poi magari uno shampoo ogni sera che deterga il cuoio capelluto. Questo sì, magari shampoo indicati per uso frequente, così non sono aggressivi e non attaccano il cuoio capelluto. Ci sono nei post anche shampoo, le cose interessanti sono questi oli non a risciacquo. Qui hanno un effetto meccanico per cui riparano le cuticole del fusto e riescono a ridare la lucentezza, che sembra essere tra l'altro il segnale in assoluto più apprezzato come segno di giovinezza dei capelli, più del colore. Leggevo un sondaggio per cui la cosa che più interessa pare essere la lucentezza del capello, che dipende effettivamente dall'integrità della cuticola. Allora questi oli non a risciacquo con rosa moschita, ce n'è uno con l'agua pui, scusate, l'agua pui, che è un estratto di succo di un fiore hawaiano, che è molto carino perché è abituato a resistere alle alte esposizioni solari e quindi protegge il fusto del capello dall'eventuale danno, e essendo persistente sul capello non necessita di un risciacquo a distanza di tempo, quindi è comodo da utilizzare anche in vacanza. Andiamo a Roma, c'è Francesco, 800 24 00 24. Vogliamo aprire i microfoni di Cuore Denari per i nostri ascoltatori che vogliono avere un consiglio dai nostri esperti. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai dottori in linea. Io vorrei fare una domanda sui capelli. Sì. Appunto, io ho avuto una piccola perdita, però il mio caso è un po' particolare perché io comunque ho il capello molto grasso, il sebo, il famoso sebo. Vorrei sapere se il PRP potrebbe essere una soluzione o una delle soluzioni, visto che è un plasma arricchito di piastrine. Vorrei proprio chiedere agli esperti se potrebbe essere veramente una soluzione o una delle soluzioni. Una delle soluzioni. Ti ringrazio, buona giornata. Grazie a Francesco. Dottoressa Trink. Dunque, diciamo, distinguiamo un po' le cose, perché per quanto riguarda la dermatite, questi capelli grassi a cui si riferiva, quindi la dermatite seborroica, come dicevamo prima, questa malassezia è convivente con il nostro cuoio capelluto, quindi è un problema che tenderà a recidivare, che non guarisce neanche col plasma ricco di piastrine. Ecco, ne curiamo i sintomi ma non la debelliamo mai definitivamente. Per quanto riguarda la caduta, il plasma ricco di piastrine funziona, diciamo, sfruttando i fattori di crescita delle nostre piastrine per stimolare le cellule staminali del cuoio capelluto a generare capelli nuovi. Quindi è vero che è un regolatore del ciclo del capello. Diciamo che l'indicazione è molto dipendente dalla diagnosi. Se si tratta di una caduta stagionale può non essere necessario, se si trattasse di una perché viene recuperata spontaneamente dal cuoio capelluto. Se si trattasse di forme di alopecia androgenetica o di alopecia areata in cui è necessario regolare il ciclo del capello e possibilmente stimolarne la produzione di nuovi, allora diventa una tecnica molto interessante. Roberto, torno da te per dare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori delle indicazioni pratiche. Ad esempio, iniziamo dalle donne, vogliamo tenere i capelli un po' in ordine. Ho letto che vanno di moda le onde morbide quest'anno, è un po' il capello un po' ondulato. Ecco. Sì, io ho sempre adorate, però l'importante, ecco, per le onde morbide sui capelli lunghi, che che sono magari un po' più lisci, basta fare delle due piccole trecce, una riga al centro, due piccole trecce laterali, una al nato, una ad un altro, farle asciugare e poi aprirle e vengono delle onde. Così evitiamo l'effetto magacirce. Sì, vero, però evitiamo anche l'effetto troppo pesante delle onde fatte troppo bene, che costruiscono delle bambole americane, non delle donne italiane. Senti, prima dell'estate, prima di partire, dicevi che uno degli errori è scurirsi troppi i capelli e che ci sono adesso anche delle lacche, dei rimmel per coprire colorare, un po'. Ecco. Però la tinta sì o la tinta no? La tinta sì, tutta la vita, perché basta questa cosa del bianco, volutamente bianco, perché io trovo che a 12 anni tutte le ragazzine vogliono essere schiarite e a 60, che siamo un po' meno belli, non tingerli. Io trovo che tingerli di un colore giusto, di una colorazione che non è nociva, con un buon parrucchiere che ti consiglia, il capello colorato va sempre più bello. Dottoressa Trink, lei è d'accordo? I capelli bianchi proprio perché non hanno la melanina, che è il naturale sistema di difesa dei tessuti dal sole, sono proprio quelli più esposti al rischio di danno solare, quindi anche sono molto favorevole alla tinta preesposizione. Assolutamente. Allora, protegge. Vero? Allora, prima guarda, una cosa stranissima, io vedo tanti ragazzi giovani quando lavano i capelli dopo il colore, li lavano per 2-3 volte, invece no, dopo il colore si deve fare uno shampoo leggero, perché non si può lavare 2-3 volte, perché già il colore di per sé pulisce la cute. Dottoressa Trink, chiudiamo questa, insieme a Roberto, questa nostra chiacchierata sulle chiome con alcune raccomandazioni le abbiamo già anticipate, per proteggere i nostri capelli dal sole, quindi mi raccomando, usare i prodotti specifici, un po' come succede per la pelle, anche i capelli vanno protetti. Va bene anche il cappellino, soprattutto perché di capelli ne ha pochi, perché anche il cuoio capelluto va difeso. Dottoressa Trink, lanciamo un messaggio. Sì, benissimo, i cappellini ce ne sono di specifici, cioè per chi è completamente calvo o ha problemi di diradamento severo, esistono proprio tessuti particolari che vengono imbevuti in un filtro di protezione solare totale e quindi garantiscono proprio il non passaggio dei raggi ultravioletti, che sono quelli più pericolosi per il nostro cuoio capelluto. Quindi le indicazioni veloci: si proteggersi i capelli dal sole o con cappellini dedicati o con filtri di protezione dedicati ai capelli, meglio le formulazioni di spray, oli e spray, che hanno un'altissima affinità con la struttura del capello, quindi cocco, jojoba, girasole vanno benissimo. Cercare di sciacquarli il più possibile dopo aver fatto i bagni in acqua o in piscina, pettinarli possibilmente da asciutti, se lo preferiamo da bagnati, solo dopo aver applicato il balsamo, perché i capelli bagnati sono molto meno resistenti alla trazione, quindi si spezzano più facilmente. Quando possibile lasciarli asciugare a temperatura ambiente, insomma, per evitare un ulteriore stress fisico, e lasciamoli sciolti il più possibile, perché esistono queste forme di sialo, qui c'è la trazione, per cui i capelli costretti in pettinature particolarmente tensive per lunghi periodi possono portare a caduta progressiva, quindi lasciamoli sciolti, che d'estate è anche bello, no? Allora, abbiamo Adriano da Torino per un consiglio. Buongiorno Adriano, prima dei mercati. Adriano, buongiorno. Dove è finito Adriano? Adriano, dove stava andando? Buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Deve. Allora, buongiorno, salute a tutti. Le dico il mio caso. Io ho sofferto per anni di un prurito alla testa spaventoso, cioè abbastanza importante. Fastidioso, sì. Sì, molto fastidioso. E mi sono stato da dermatologi. Ne ha fatte di ogni e non ha risolto niente. Poi mi segnalano dalla regia. Ho speso un sacco di soldi e non ho risolto nulla. Poi le dico semplicemente: sa come ho risolto il problema? Sì, con il succo di limone. Il succo di limone usato come una sorta di lozione per calmare il prurito, ho capito bene? Mi è passato tutto, dopo tanti anni, il succo di limone. Prima non potevo nemmeno, cioè se tentavo di darmi una grattatina alla testa era un disastro. Ecoval, Scalp Fluid, niente, e altre cose. Invece il limone è stato una mano santa. Adriano, una battuta dalla dottoressa Trinca, è possibile? Possiamo darlo come consiglio, dottoressa? Diciamo che il limone è un forte basicizzante, può darsi che abbia tolto questa eccessiva acidità del cuoio capelluto e abbia lenito il prurito, ecco, sì, insomma, mi è difficile pensare possa essere solo quello, però perché no? Insomma, però perché no? Sicuramente. Roberto, è vero che se metto un po' di limone sui capelli, prendo il sole, ho i riflessi? Il limone lo facevo mettere per schiarirsi i capelli, ecco. Non sapevo di questa cosa, però tutto può essere un'idea. E certo, scriveteci allora i vostri rimedi per mantenere i capelli belli, sani e forti. Ringrazio la dottoressa Anna Trink, un abbraccio. Grazie a Roberto D'Antonio e grazie. Noi andiamo a sentire i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. Vi sarà capitato, non che vi spostassero la macchina, forse, ma di prendere una multa, magari anche salata, per aver parcheggiato in divieto di sosta o per non aver pagato la sosta al parchimetro fermandovi in una zona blu. Può capitare, no? Per distrazione, dimenticanza, negligenza. A volte non possiamo pagare perché non siamo provvisti di monetine o di contanti. Allora, in quei casi dobbiamo andare al bancomat più vicino e se si è molto sfortunati la multa arriva mentre ci stavamo allontanando per prelevare, no? A me è capitato. Allora, ora tutto questo non dovrebbe più succedere, perché dal 1 luglio, stando a quanto previsto dalla legge di stabilità, deve essere possibile pagare la sosta e i parchimetri con bancomat e carte di credito. E sarà proprio vero? Allora chiediamo conferma a Bruno Albertinelli, che è vicepresidente di Federconsumatori, che abbiamo invitato a Cuore Denari. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, Albertinelli, intanto di quali parcheggi stiamo parlando? Quelli gestiti dal comune, da altri concessionari, le famose zone blu? Le famose zone blu. Iniziamo da qui. Allora, finora i parchimetri potevano non avere la possibilità del POS, quindi in sostanza dovevamo avere il contante pronto, monete, banconote, altrimenti non potevamo parcheggiarci. E così adesso invece si potrà pagare con il POS. A voi come associazione stanno arrivando delle segnalazioni, perché è in vigore dal 1 luglio. La normativa è una normativa che era già stata inserita nella legge di stabilità del 2015, doveva essere in vigore dal luglio 2016 il ragionamento dei parcometri, uso questa espressione, con pagamento, con carta di credito, con banco, ma tipo. Il problema è che non ci sono, come si può dire, non sono state modificate le colonnine di pagamento nella maggioranza dei comuni italiani. C'è una procedura in corso, tranne credo Bergamo e qualche un altro comune che hanno già fatto tutto il percorso di cambiare le colonnine. La maggioranza dei comuni italiani è ancora in una situazione in cui il pagamento con il POS è assolutamente impossibile. Ma scusi, se l'obbligo è scattato dal 1 luglio e se io mi trovassi sprovvisto di contante, il POS non c'è, io quindi in teoria potrei lasciare la mia auto parcheggiata senza sentirmi tenuto a pagare. È una teoria simpaticissima. Su questa cosa qui c'è una, come si può dire, ci sono migliaia di posizioni. Io stamattina ho fatto una ricerca così anche sulle ultime novità in merito a questo, al di là di un comunicato che abbiamo fatto anche noi alcuni giorni fa. C'è chi dice non pagate e tranquillamente rivolgetevi al giudice di pace se arriva la multa. Teniamo presente che la multa dovrebbe essere intorno ai 41 euro. C'è chi dice pagate perché tanto non ci sono i decreti attuativi, perché non ci sono le tempistiche, perché addirittura un autorevole giornale che fa riferimento al mondo dell'auto quattro ruote, mi sembra, dice pagate perché è giusto pagare. Ma al di là che è giusto pagare, il ragionamento che era iniziato nella chiacchierata che è partita è: se io non ho monetine in tasca e non sono, e sono impossibilitato a pagare, a quel punto lì applico una normativa di legge, mi dai la multa e ricorro al giudice di pace. Poi è vero che i costi del giudice di pace più o meno si assommeranno a quella che è la multa, però persone che hanno, come si può dire, concezioni di diritto, passatemi il termine, anche poi se può essere un diritto non condiviso, ce ne sono in Italia. Quindi il rischio che si corre intorno a questa vicenda è che i comuni continueranno a dare le multe, molte persone si rivolgeranno ai giudici di pace e nascerà come sempre un, come si può dire, una diatriba, non voglio usare un'altra espressione, su una normativa di legge che dovrebbe essere applicata, rispettata, non è applicata e non è rispettata. Allora andiamo a Modena, c'è Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vincenzo, allora. Io sono un ausiliario qui a Modena e ho sentito anche questo, questo fatto che dal 1 luglio le colonnine dovrebbero essere fornite di bancomat. Noi qui non abbiamo ancora il bancomat e naturalmente anche fare queste sostituzioni, questi cambiamenti hanno dei costi notevoli anche per le aziende che devono fare queste modifiche. Sì. Però noi a Modena abbiamo anche un'applicazione che viene chiamata Sosta Facile che permette proprio tramite uno smartphone di poter pagare la sosta in maniera precisa oltretutto, perché la si può pagare proprio per il tempo dell'utilizzo, che dà l'opportunità a tutti quanti di poter sostare, certo, e ovviare al discorso del banco, del banco, ma le monetine, di non, soprattutto di non prendere la multa, esatto, perché dispiace buttare tutti, esatto, quei soldi in una multa. Chiediamo intanto ai nostri ascoltatori di chiamarci all'800 24 00 24 come Vincenzo e di raccontarci come stanno, come si organizzano, la possibilità che nelle loro città hanno di pagare il parcheggio. Albertinelli, è una buona soluzione, insomma, ci sono anche soluzioni alternative al POS? Sì, ma ci sono soluzioni alternative al POS, non lo metto in dubbio, per carità, ma la logica è che dovrebbero i comuni ragionare proprio nell'ambito dell'ANCI, un percorso di, come si può dire, di tempistiche di cambiamento delle colonnine, perché non tutti quanti potranno fare quello che viene fatto a Modena, e trovare soluzioni temporanee per non, come si può dire, per non multare le persone che onestamente non riescono a pagare la sosta, perché come dicevamo all'inizio non hanno le monetine in tasca. E attenzione, ci può essere anche il caso che io arrivo in un posto, c'è la colonnina che non funziona o che non ho i soldi, dovrei secondo qualcheduno girare fin quando o trovo i soldi o trovo la colonnina che non funziona. C'è un ragionamento, come si può dire, di applicare l'intelligenza, passatemi il termine, intorno a questa vicenda, perché non si può da una parte fare una legge e dall'altra parte trovare scabotage, certo, perché questa legge non venga non rispettata. Funzioni, certo. Esatto, ripeto, che sia l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che mi sembra che abbia già inoltrato delle domande in merito a questo, faccia veramente un percorso in cui da parte mia si vuole una tempistica di 2, 3, 4 mesi per cambiare le colonnine, là dove non si cambiano le colonnine soluzioni alternative come quella di Modena, va benissimo, però dovrebbero essere queste cose, come si può dire, discusse all'interno di tutti i comuni con le varie associazioni dei consumatori per trovare una soluzione positiva che da una parte non permetta furbizia da parte di chi vorrebbe usare, come si può dire, la mancanza della colonnina in regola e dall'altra parte però non ci sia neanche un arbitrio da parte dei comuni. Senta Albertinelli, mi sembra una situazione che ricorda quella dell'obbligo di POS per i professionisti che è entrato in vigore qualche tempo fa, è stato inserito un obbligo anche lì però senza prevedere una sanzione per chi non si fosse adeguato. Mi sembra una, esatto, situazione più o meno analoga, no? Con allora, perfetto, è uguale. Abbiamo anche scritto sul nostro comunicato nazionale, cioè non si può, anche così, cioè, se portiamo i cittadini a disaffezionarsi intorno alle normative di legge e a cercare scabotage, perché queste normative di legge non sono, come si può dire, applicate seriamente, è un percorso di inciviltà che incrementiamo ulteriormente all'interno del nostro paese. Allora, molte segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori che via WhatsApp ci segnalano delle app in varie città, Bologna, e Modena ancora, però altri ci scrivono, non tutti hanno smartphone con internet. Massimo da Genova, che ci aveva chiamato, abbiamo provato a ricontattarlo, ma non risponde, ci segnala che a Genova, nella sua città, è tutta fornita di parchimetri dove si può pagare con il POS. Albertinelli. Perfetto. Benissimo, è vero, sì. è una di quelle città che ha fatto il ragionamento di mettersi in regola tempestivamente, perché è vero che è un investimento cambiare le colonnine, ma nessuno ha chiesto a me cittadino di cambiare le colonnine. È uscita una normativa di legge che dovrebbe andare al passo con i tempi, permettere alle persone che sempre di meno girano con un borsellino, con dentro le monetine, con il portafoglio, con dentro i soldi, ma girano sempre di più con carte di credito, con carte magnetiche, con il cellulare, per pagare anche tramite il cellulare. Quindi a questo punto ci vorrebbe veramente un'iniziativa collegiale, come è stata fatta in alcuni comuni, che si parta, si cambiano le colonnine. C'è dei costi, per carità, non lo metto in dubbio, però attenzione. Sappiamo benissimo che se le cose le facciamo, facciamole bene, Albertinelli. Sì, no, ma non solo, la maggioranza delle zone blu a pagamento servono ai comuni per fare, passatemi il termine, non bello, per fare cassa. E questo, ci sentiamo un po' il banco, ma a volte noi. Senta, Albertinelli, ma lei di recentemente ne ha preso una multa? No. Prende mai lei? Per le colonnine no, ecco. Per altre cose sì, è capitato anche a me di lasciare la macchina in divieto di sosta, di lasciarla con i lampeggianti accesi in posti in cui giustamente non dovrebbe essere lasciata per scendere 5 minuti, e anche lì io sempre le ho pagate tranquillamente perché riconosco l'errore, perché ognuno di noi può, certo. Macchina, siamo ormai squadra. Chi sbaglia paga. Siamo di corsa sempre, questo è il dato di fatto drammatico di questa società. Però dall'altra parte io non vorrei neanche che si vadano a intasare i giudici di pace per dei ricorsi che, se non gestita in maniera intelligente questa situazione, senz'altro partiranno. Allora ci scrive Emilio: trovi indecente che si debba pagare per parcheggiare senza alcun servizio di custodia? E perché ormai ci siamo scatenati, mentre un'amica, lei se la ride, ma un'amica ci scrive che la settimana scorsa a Caorle ha preso una multa proprio perché il parcometro non aveva la possibilità di pagare con POS o SMS, invece da molto tempo a Pordenone e a Padova si paga con i metodi più moderni, SMS o app, insomma. Comune che vai, problema che trovi, oppure in alcuni casi, come a Genova, ottime soluzioni. Albertinelli, grazie, mi raccomando, con i lampeggianti, sii attento. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi fuori l'elettrodomestico, che magari è rotto, di cui volete liberarvene, perché ci sono delle indicazioni. Intanto pensate, qual è quell'elettrodomestico di cui vorreste disfarvene? 800 24 0024. Informazioni sul traffico e poi di nuovo insieme. Cuore e denari. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia. Adesso partiamo con tutte le raccomandazioni utili per salvare le nostre chiome. In estate soprattutto possiamo fare a meno di usare fone piastre, le ragazze soprattutto vanno come, no? Si piastrano come poche, anche poi le piastre si svampano, come si dice. E allora noi oggi vogliamo parlare non solo di piastre di phon, ma di tutti i piccoli elettrodomestici che non funzionano più, magari non sappiamo bene come smaltirli. Come vi comportate di solito in questi casi? Buttate nella spazzatura e non ci pensate più, oppure siete più consapevoli? Un contro zero non è il risultato di una partita di calcio, ma è il nome dato a un provvedimento di legge che porta la firma del ministro dell'Ambiente Galletti e che introduce le nuove regole per lo smaltimento dei piccoli elettrodomestici. Regole, pensate, che entrano in vigore proprio oggi. Insomma, se non sapete dove buttare il vecchio asciugacapelli o il vecchio cellulare, oggi ve lo spieghiamo noi. Anzi, ve lo spiega Francesca Milano del Sole 24 Ore, che è scesa ed è arrivata in studio. Grazie Francesca. Così grazie a voi e buongiorno. Allora, intanto l'ABC, la carta d'identità, come direbbe Deborah. La carta d'identità. Qua, di quale provvedimento stiamo parlando? Sentiamo. E il provvedimento è quello approvato dal ministro Galletti, che si chiama 1 contro 0, decreto 1 contro 0. Che cosa significa? Significa che il cittadino che ha un telefonino rotto in fondo al cassetto, oppure l'asciugacapelli piccolo, perché poi spiegheremo che ci sono delle dimensioni, nascosto in bagno e non funziona più, magari di quelli bruciati, oppure non so, un rasoio elettrico o anche un tablet che magari è caduto, si è rotto, insomma non sapete che farvene, da oggi potete portare portarlo in un negozio, in un grande negozio di elettrodomestici, e il negoziante sarà obbligato a ritirarlo gratuitamente e quindi voi non dovrete comprare un nuovo prodotto. Ah, quindi io vado e gli dico: senta, mi può, ecco, il mio forno funziona più. Me lo può smaltire, perché fondamentalmente poi questo prodotto viene mandato in smaltimento, quindi vengono recuperati una serie di materiali, quindi viene smaltito correttamente, riciclato correttamente, ma il cittadino non ha nessun costo. Allora, intanto chiediamo subito ai nostri ascoltatori che ne pensano, ma vorrei anche sentire qualche negoziante. Secondo te sarà contento di vedersi recapitare, no, tutta questa spazzatura? Perché chissà quanti piccoli elettrodomestici ci sono nella casa di tantissimi, ciascuno di noi, che temporaneamente li parcheggiamo lì perché sono rotti, e poi dici: adesso poi ci penso, perché anche smaltirli poi ci dirai come fare. Sì, sì, assolutamente. Ecco, allora immagino persone che arrivano con le sacche e svuotano sul bancone del povero del negoziante, e il rasoio elettrico del marito che non funziona più, e la piastra dei capelli della ragazza, eccetera. La sveglia, per esempio, una vecchia sveglia che non suona più, non il funziona tablet, più. Il cellulare. Secondo te come reagiranno? Allora, secondo me non reagiranno bene, in effetti non stanno già reagendo bene, però bisogna fare una precisazione, cioè questo obbligo che entra in vigore oggi scatta soltanto per i negozi con una superficie di almeno 400 metri quadri, vuol dire che sono grandi negozi, no? Quindi hanno più persone. Hanno più persone, ce la fanno. Per i piccoli negozianti, e così come per chi si occupa di commercio online, quindi se compriamo da un negoziante che vende online, questo obbligo non scatta, non è obbligatorio, ma rimane una facoltà. Cioè, se un negoziante piccolo ritiene che comunque possa essere per lui vantaggioso il fatto che un cliente vada lì a smaltire un telefonino, perché è vero che non c'è l'obbligo di comprare nulla, però magari vai al negozio, vedi una cosa che ti piace, insomma, può essere comunque un incentivo. Però appunto sta alla scelta del negoziante, sotto i 400 metri quadri di dimensione dell'esercizio, appunto. Abbiamo parlato di piccoli elettrodomestici, non sono ammessi, quindi, cioè, non posso arrivare lì con una stampante, no, col ventilatore, no, con l'aspirapolvere. Bisogna stare attenti, perché il decreto parla di elettrodomestici di dimensione inferiore ai 25 centimetri. Ora, per un tablet che ha una forma più o meno regolare è facile misurare, ma ci sono degli elettrodomestici che sono di forme strane, pensiamo appunto all'asciugacapelli, quello con il diffusore, queste cose qui. Ecco, quelli sono troppo grandi, quindi quelli non possono essere smaltiti con questa modalità. Però, per esempio, il piccolo asciugacapelli da viaggio, sai, quello pieghevole, così, quello sì. Bisogna ricordarsi che la dimensione consentita dal decreto è quella di 25 centimetri. Più o meno un palmo, dai. Sì, esatto, sono piccoli oggetti, dicevamo la sveglia, il tablet, un lettore MP3, una calcolatrice che non funziona più. Allora, ma non basta quindi portarli nella piazzola ecologica e metterli nell'apposita sezione, scrive Alessandra? Basta, sì, assolutamente rispondiamo di sì a questa domanda, basta. Questo, diciamo che è un nuovo modo di poterli smaltire, quindi è una soluzione aggiuntiva a quelle delle piazzole e dei centri di raccolta. Allora, ci scrive Luca da Milano che l'elettrodomestico, con un commento naturalmente, l'elettrodomestico è fatto di plastica e metallo, basta buttarlo nel cassonetto della plastica e metallo, problema risolto senza tante storie come fate voi. Allora, facciamo troppe storie per Luca. No, secondo lui sì, secondo noi no, e secondo il ministero soprattutto no, perché bisogna pensare, Luca, che le apparecchiature elettroniche... Luca, scriva anche a Galletti. Esatto, le apparecchiature elettroniche, al di là dell'involucro, hanno dentro una serie di materiali che possono essere riciclati, sono materiali appunto elettrici che possono essere, che devono essere smaltiti in maniera differente rispetto alla plastica e al metallo. Allora, Bruno ci scrive: ancora dare addosso ai negozi, sottolineavamo un peso per loro, fastidio, assolutamente. Ecco, fatelo fare ai comuni che sono già pagati per questo. Quindi i comuni continuano a farlo, perché comunque le aree di raccolta comunali, quindi i centri di raccolta dove in genere si vanno a portare gli elettrodomestici, appunto, ricordiamo che quelli grandi bisognerà ancora portarli e smaltirli con la vecchia modalità, quindi o portarli nei centri di raccolta comunali, oppure portarli, o meglio farseli ritirare da un commerciante, però a fronte di un acquisto nuovo. Quindi la lavatrice, per esempio, io posso darla gratuitamente al negoziante che viene a ritirarmela a casa, ma solo se compro una nuova lavatrice. Sì, ma quando me la viene a ritirare a casa, io devo pagare o è gratis? No, questo è gratis servizio? Se ho comprato una nuova lavatrice, sì. Sì, siamo sicuri? Lo fanno tutti? Bella domanda, dovrebbe essere così. Usiamo il condizionale. Allora, che facciano i centri di recupero? Sono 10 anni che portiamo gli elettrodomestici insieme ad altri rifiuti, ci scrive Pietro da Trento. Sì, bisognerebbe attrezzarsi, ma questa è una ulteriore modalità appunto per aiutare i cittadini che stanno lì con le macchine a portare questi vecchi elettrodomestici di notte, no? In genere questi trasporti vengono fatti sempre a orari particolari e effettivamente è un disagio. Quello dei negozi è in qualche modo un nuovo modo per smaltirli in maniera corretta, perché poi appunto bisogna pensare che questi materiali vengono separati pezzo per pezzo e vengono poi appunto riutilizzati o comunque riciclati. Comunque il provvedimento, intanto Luca è stato abbastanza bastonato dai nostri ascoltatori che sono contrari a quello che ci ha detto, anzi molti ascoltatori dicono che è un'informazione utile. Allora, il provvedimento è operativo da oggi. Assolutamente. Quindi da oggi. Possiamo già andare nel negozio e riconsegnare il nostro piccolo elettrodomestico. Sì, tirate fuori i vecchi cellulari, quelli col vetro rotto, quelli che aspetta non si accendono più. Aspetta che un cellulare ci scrive, questa che forse sicuramente tu saprai rispondere, ma i cellulari hanno un'anagrafica. Registreranno che quel cellulare non è più nella disponibilità del proprietario? È una bella domanda. Il consiglio che posso dare è comunque di ricordarsi di cancellare tutto dalla memoria del cellulare prima di andare a portarlo in un negozio, quindi prima di smaltirlo. Cioè ricordatevi che il cellulare è una sorta di non so come dire, diario segreto, dove dentro ci sono i numeri di telefono, le fotografie, una serie di informazioni personali che è bene cancellare prima di andare a gettare l'oggetto. Allora, si possono però cercare in città anche le eco isole intelligenti, no? Sì. Vogliamo dare anche questa raccomandazione, sì, indicazione? Perché il consorzio Ecolite ha posizionato in alcune città, mi sembra che al momento siano circa 50 quelle disponibili, sono dei cassonetti proprio dove possono essere raccolti questi piccoli elettrodomestici rotti. Si trovano sempre nei pressi di grandi negozi di elettrodomestici, così io posso andare lì, non gravo sul negoziante, perché fuori, magari dove c'è il parcheggio del negozio, posso trovare questi cassonetti che sono insomma riconoscibili e posso gettare lì il mio piccolo elettrodomestico che non funziona più. Allora, non so se abbiamo tempo per sentire Mario, no, dalla provincia di Monza Brianza, che insomma è contrario un po' a questa legge, a questo decreto legge sui piccoli elettrodomestici, che lo ritrovo un po' sciocco, inutile. Mario, è così, non so che dirle, le posso dare appuntamento però lunedì alle 10.30 per una nuova puntata di Cuore Denari e augurarle un magnifico weekend. Grazie per l'ascolto, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi, buona giornata.